Sarah is at the police station. Alla polizia? Ma perché? We'll find out in a minute. But first, we need to point out that Sarah is not at the police station, but at the carabinieri station. Sì, è alla stazione dei carabinieri. But what's the difference? Well, they're both in charge of public order, but while the police depend on the Home Office, the carabinieri are part of the army. The Carabinieri Corps have an old and glorious tradition. They wear a black uniform with a red stripe on the trousers, and it's not uncommon to see them on horseback patrolling the city centre. Ed ora scopriamo... Now let's find out. Ed ora scopriamo perché Sara è alla stazione dei Carabinieri. Ecco le parole nuove. Ascolti e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Maresciallo. Marshal. Maresciallo. A posto. In place. A posto. È tutto a posto. Everything is fine. Is sorted. È tutto a posto. Si ricordi? Remember, formal. Si ricordi? Un documento di identità. ID. Un documento di identità. Succederà. It will happen. Succederà. Non succederà più. It won't happen anymore. Non succederà più. Ed ora, ascolti di nuovo le parole e le espressioni nuove. Un documento di identità. Maresciallo. Non succederà più. È tutto a posto. Si ricordi.